A cena con Lucifero di Devana, figlia di Liliana. 1. Il sogno. Erano diversi mesi che di notte lo sognavo. Un uomo bellissimo, con la pelle e gli occhi scuri, dallo sguardo triste. Dolce, scivolava leggermente nel mio letto e con sottili carezze risvegliava abilmente ogni particella del mio essere, al desiderio e alla passione. Nel sogno io fremevo al contatto con la sua pelle, mi abbandonavo al suo abbraccio con la sensazione che insieme a lui avrei potuto volare, totalmente fiduciosa, verso una meta nota soltanto a lui. Mi lasciavo spogliare e mentre lui, steso accanto a me, mi sfiorava con i polpastrelli, io guardavo ipnotizzata le sue labbra, prendevo il suo bellissimo viso tra le mie mani, lo attiravo verso di me e mi svegliavo. Quel sogno mi ossessionava. Di notte perché non riuscivo a scoprire chi fosse quell'uomo meraviglioso e soprattutto perché non mi riusciva di baciarlo. Di giorno, perché il ricordo di lui e l'aspettativa di sognarlo di nuovo mi perseguitava ogni momento e mi distraeva dalla vita ordinaria. Sembra impossibile, ma mi ero innamorata di lui, chiunque fosse. Lo pensavo continuamente e desideravo con tutto il cuore scoprire la causa della tristezza in fondo ai suoi occhi. Quando mi guardavo allo specchio, dubitavo di me stessa. Avevano ragione i miei conoscenti a pensare che fossi un po' tocca. Mi ero innamorata di un sogno. Decisi di prendermi una vacanza. Feci i bagagli e accettai l'invito di amici a godermi per qualche giorno il loro cottage nella foresta. E fu così che accadde. E ora dubbi non ne ho più perché non sognavo quando, al tramonto di una limpida, freddissima giornata di novembre, qualcuno bussò alla porta del cottage e io, aprendola, mi trovai davanti agli occhi l'oggetto dei miei desideri, in carne e ossa. 2. L'incontro. Le ginocchia mi tremavano al punto che dovetti appoggiarmi alla porta, mentre lui tranquillamente entrava in casa, si toglieva il pastrano e si accomodava vicino al fuoco. Quanto era alto! Devo dire che dentro di me avevo sempre sentito che prima o poi lo avrei incontrato da qualche parte. Non poteva essere solo un sogno quell'essere di cui sentivo perfino l'odore con una chiarezza sconcertante. Così, quando me lo trovai di fronte, una parte di me, quella razionale, rimaneva allibita. L'altra parte, quella intuitiva, reagiva come chissà che era solo questione di tempo. Anzi, a pensarci bene, mi ero trasferita nel bosco proprio per agevolare quell'incontro, anche se in quel momento me ne uscii con un patetico "Non ti aspettavo da quella parte". E lui rispose, offrendomi la sua voce calda e sensuale, "Ah no? Pensavi che sarei precipitato giù dal camino? Ma tu sei vero? Beh, dipende da cosa intendi per vero. Tutto è vero. E tutto non lo è. Siamo fatti tutti della stessa materia", specificò arricciando indice e medi per mimare le virgolette. "Io, tu, questo tavolino, cambia solo la velocità di vibrazione delle particelle. Io ho adeguato la mia alla tua e eccomi qua. Senti, io non ci sto capendo nulla, ma non mi importa. Se qua posso vederti, toccarti, e tanto mi basta perché sono diverse settimane che ho un desiderio impellente di fare una cosa", dichiarai sfrontatamente fissando le sue labbra e scivolando sinuosamente addosso a lui in un modo che mi avrebbe fatto vergognare di me stessa in qualunque altra situazione. "No, no, non sono qui per questo", disse sciogliendosi dal mio tentativo di abbracciarlo. "Oh, senti, lo so che non sta bene", scandii petulante, "perché ti conosco appena, bla bla bla, ma io lo desidero troppo e se non ti lasci baciare immediatamente, giuro che dovrò prenderti con la forza", avvertii dall'alto del mio 1,60 m di altezza, lui che era sicuramente vicino ai 2 metri. "Ti prego, smettila. Tu sai perché sono qui. Lo sai come sapevi che sarei venuto. Non ho molto tempo e mi devi stare a sentire perché ho bisogno del tuo aiuto. Perciò ascoltami attentamente. Moltissimi anni fa, cominciò a raccontare, per amore degli esseri umani, ho accettato di incarnare il ruolo dell'oscuro perché loro potessero esercitare il libero arbitrio. Scegliere, capisci? Mi sono volontariamente gettato dalla parte opposta a quella della luce e da allora precipito nel buio. Non capisco cosa vuol dire che non si può scegliere volontariamente la luce e l'espansione senza l'oscurità e la contrazione come contrappeso. La scelta può avvenire solamente quando si hanno due possibilità, ma gli uomini hanno dimenticato il mio sacrificio e hanno cominciato a identificare l'oscurità con il male e a considerare me responsabile di tutto ciò che va male nelle loro vite, anziché rivolgersi alle loro stesse scelte. Così ora io precipito e soffro per nulla e sono stanco. Ma io che cosa posso fare? Riportarmi nella direzione giusta. Cosa? Quella della luce. Io? Ma se nemmeno capisco cosa stai dicendo. Oh, sì che capisci. Tu sai che il male non esiste. È sempre stata una tua convinzione. Non è forse per questo che sei sempre stata isolata, diversa, fraintesa? Tu sei consapevole che ogni evento è neutro e che chi lo osserva lo definisce positivo o negativo a seconda della posizione in cui lo guarda. Tu sai che il tramonto corrisponde all'alba dall'altra parte del globo. Oh, e che cosa dovrei fare? Mormorai, sentendo che mi stava incastrando e che non potevo né volevo fare nulla per oppormi. Aiutami, ti prego. Ma come? Col pensiero. Tutto è pensiero. Noi stessi siamo pensiero, che vibra una frequenza tale da farci sembrare densi, cosicché ci sperimentiamo coi sensi fisici. Con il pensiero, tu e tutti coloro a cui riuscirai a far cambiare pensiero su di me, potete riportarmi nella direzione della luce, così io potrò finalmente risalire la spirale dell'oscurità e ritornare al centro. Ma insomma, lasciami andare! Non so nemmeno chi sei! Gli gridai mentre nella foga mi aveva quasi sollevata e mi stritolava le spalle. Io sono colui che porta la luce. La mia l'ho donata agli esseri umani e ora io non l'ho più. E mentre un pensiero di una portata inimmaginabile si faceva strada dentro la mia consapevolezza, il mio bellissimo ospite cominciò a svanire. Rimasi inchiodata, dov'ero, incapace di gridare, di fermarlo, finché scomparve del tutto, e dove c'era lui non rimase che un raggio di luce infuocato che portava l'ultimo sole del tramonto nella stanza. A quel punto, folgorata, mi riscossi e corsi a prendere il vocabolario di latino che avevo visto al piano di sopra. Cercai freneticamente la lettera L, Lu, Lu, Lu, Luci, Lucifer. Colui che porta la luce. Lasciai cadere il pesante volume per terra e scivolai sul tappeto per restarvi attonita fino alle prime ore del mattino. Quando mi ripresi, l'occhio mi cadde sulla pagina del vocabolario ancora aperto e scoprii che in quelle ore, proprio sopra la parola Lucifer, si era formata una bellissima macchia dorata a forma di rosa. 3. Il patto. La notte successiva lo sognai nuovamente, ma questa volta non andò come al solito. Per il momento non tentai più di sedurlo, una donna che seduce il diavolo, ma non era sempre stato il contrario. Anzi, parlammo a lungo nel sogno e mi spiegò, poiché ormai era chiaro che accettavo di aiutarlo, come fare perché egli potesse materializzarsi e restare con me più a lungo di quanto era successo la prima volta. Una parte di me era molto felice di trascorrere del tempo con lui nella sua manifestazione fisica. Infatti, I miei sensi non si erano per nulla dimenticati dell'uragano che quell'essere scatenava in loro e, beh, per aiutarlo dovevamo frequentarci e chissà, avevo dei progetti. Mi disse che l'aiuto che potevo offrirgli era quello di comunicare a un certo numero di persone alcune verità che mi avrebbe rivelato. In questo modo il pensiero collettivo sul suo conto e sul male avrebbe cominciato a mutare e lui avrebbe potuto abbandonare quello scomodo e doloroso precipitare lontano dal centro per essere riassorbito nella armoniosa danza dell'universo. Mi presi tuttavia una piccola rivincita e chiesi perentoriamente che tali verità mi venissero rivelate nel corso di altrettante cenette a lume di candela in abito da sera. O a modo mio o niente. Se voleva il mio aiuto, doveva guadagnarselo. E così avvenne. Mi chiese di non rivelare il procedimento che usai per consentirgli di materializzarsi. Ah, immaginate l'inquisizione, che banchetto! E sospirando si accinse a presentarsi per 3 sere consecutive alla porta del cottage, elegantissimo e con un mazzo di fiori in mano. Quella che segue è la trascrizione delle verità che mi rivelò durante le cene. 4. Tutto è bene. Avevo preparato uno spezzatino di soia cotto molto lentamente sulla stufa, con dadini di finocchi e zucchine e tanta cipolla rossa, insaporito con spezie tandoori. Lo spezzatino era accompagnato da una pasta brisée ricoperta con un trito di zucca, tofu e prezzemolo, il tutto rigorosamente biologico. Da anni, infatti, mi nutrivo in modo non violento. Elegantissimo e charmant. Il mio ospite, che aveva capito perfettamente come prendermi, cominciò a stare al mio gioco e io al suo, e d'altronde ne eravamo entrambi consapevoli. Mi baciò la mano con grazia, piegandosi quasi in due per scendere al mio livello, e si avvicinò al mio collo per apprezzare il mio profumo. Ma allora è vero che il diavolo è un seduttore, ironizzai. Prima di tutto ti prego di non usare quella parola. E poi no. In effetti mi sono fatto dare qualche consiglio dal mio collega Gabriele, che ha avuto un'esperienza sola ma efficace. Si sedette a tavola, che per l'occasione era veramente bella e piena di candele, e versò per entrambi, nei grandi calici, il Cabernet a perfetta temperatura ambiente che avevo scaraffato nel decanter qualche ora prima. Si servì del cibo e cominciò ad assaporarlo molto lentamente, deliziato. Non aveva letteralmente mai mangiato in vita sua. Oh, possibile che tu ti sia perso proprio il cerchio dei golosi, l'unica parte dell'inferno che vale la pena di visitare? Lo stuzzicai. Rispose, lasciandomi del tutto libera di interpretare il senso di quello che cercava di dire. Quando ebbe mangiato 2 abbondanti porzioni di spezzatino e altrettante fette di brisè, si allontanò dalla tavola dopo essersi versato un altro calice di vino. Mi fissò negli occhi, richiedendo immediatamente tutta la mia attenzione. La prima verità che ti voglio rivelare è che Dio non è affatto venuto per primo. Eh? Eh sì, insomma, vi hanno abituati a pensare che in principio ci fosse un Dio che creò tutto ciò che esiste e che poi un certo numero di angeli gli disobbedì e cadde. Eh sì, questo è ciò che ci insegnano. E ti pare coerente l'idea che a un Dio onnipotente sfugga il controllo di qualcosa? Che razza di onnipotenza è quella a cui sfugge il potere su qualcosa? In realtà si tratta sempre di scelte, ognuno sceglie in che direzione andare, cosa sperimentare. Sì, ma, lo interruppi, cosa c'entra questo con Dio, primo o secondo? C'entra parecchio, piccola mia, perché questo cambia radicalmente la visione delle cose. Le scritture dicono che in principio era il verbo, il suono, la vibrazione cosmica, la sacra Om, che è madre e che risuona perennemente. Ma perché ci fosse creazione molteplice e quindi evoluzione, ci doveva essere movimento. E il movimento può avvenire soltanto tra minimo 2 punti, la partenza e l'arrivo. Perciò bisognava che si creassero l'avanti e l'indietro, la dualità, insomma, per consentire alle particelle di muoversi. La polarità, positivo e negativo, che attraggono e respingono le particelle e permettono la nascita della frequenza, ovvero l'onda che si muove tra il punto di partenza e il punto di arrivo. Così, proseguì, la Om, il sacro suono, si scisse in due poli. Il polo positivo, quello elettrico, si chiamò Dio, che perciò cronologicamente corrisponde al secondo arrivato. Dios, infatti, viene dal greco antico e significa di Dio, è il genitivo di Zeus, che corrisponde al latino, Giove. Ora che mi ci fai pensare, intervenni, anche nel Tao Te Ching è scritto che il Tao era molto prima di Dio. Eh sì, il polo negativo, riprese, magnetico, fu Sat, che significa l'opposto, e divenne Satana. Inizialmente Satana era semplicemente un'energia esattamente come Dio. La coppia Dio-Satana fu la prima coppia polare positiva-negativa. Nella carta del cielo si riflette nella coppia complementare Giove-Saturno. Saturno e Satana hanno la stessa radice Sat. Anche Saturno è l'opposto di Giove. Il secondo rappresenta l'espansione, mentre il primo la contrazione, come nelle due fasi del respiro, nella dualità, insomma. La sua voce mi ipnotizzava e sembrava attraversare lo spazio e il tempo, portandomi verità arcane, ma che sentivo vere e che mi risuonavano in ogni particella del mio essere. Non avevo dubbi su ciò che diceva, e non certo perché il decanter era vuoto da un pezzo. Per il momento riuscivo ancora a concentrarmi su ciò che mi diceva, tentando di ignorare quant'era bello e regale. Beve un altro sorso e riprese, senza abbandonare un attimo i miei occhi. Per alcuni esoteristi e alchimisti, la lama dei tarocchi che rappresenta la creazione del mondo è gli amanti, la numero 6, che raffigura due fratelli identici, uno chiaro e uno scuro, e rappresenta la scelta, la mia. A proposito di tarocchi, intuì, la numero 16, il diavolo, è collegata a Saturno, no? Sì, perché Satan e Saturno rappresentano la stessa energia, e quello che chiamate diavolo, che viene dal greco antico diaballo, ossia separo, è solo l'illusione che le due energie siano distinte, mentre in realtà sono due espressioni della medesima. Perciò, tentai di chiarire, la Om si è scissa in due. La madre si è scissa in un polo positivo e uno negativo. Quindi significa che lo zero è diventato più uno e meno uno, che in matematica sommati danno esattamente zero. Precisamente, disse. Ossia il segno positivo più uno rappresenta l'avanti, la direzione evolutiva identificata con quello che chiamate Dio, mentre il segno negativo meno uno è la direzione opposta, quella involutiva, il Satan. Nella dimensione duale del vostro piano di esistenza, ogni essere umano ha la facoltà di scegliere quale direzione sperimentare. Avevo sprazzi di consapevolezza che si mescolavano a confusione e stanchezza, e lui se ne accorse. Mi fece una carezza e mi prese vicino a sé. Mi accoccolai contro il suo ampio petto come una gatta, e allungai il viso verso l'alto, sperando che per un attimo abbassasse la guardia, ma niente. Fece finta di niente e riprese subito la lezione. Riesci a comprendere quanto sia importante che gli esseri umani comprendano questo? Che il male non esiste. Dipende da che parte stai osservando l'evento e con che sistema di credenze. Si può pensare che Dio, tra virgolette, sia la nascita, il giorno, l'espansione e l'espiro, mentre Satan, tra virgolette, sia la morte, la notte, la contrazione e l'inspiro. L'uno non può esistere senza l'altro. In realtà dal centro partono due spirali. Quella evolutiva è chiamata Dio, quella involutiva è Satan. Ed è per aprire quella via che io precipito dall'inizio dei tempi. Nella manifestazione materica in cui vivete, proseguì, che è duale, la sublimazione della coppia bene-male, buono-cattivo, diventa vittima-carnefice. Quindi voi vivete costantemente tirati o da uno o dall'altro di questi copioni e di volta in volta Siete o la vittima o il carnefice, ma sentendovi sempre vittime, perché le vittime vanno in paradiso, mimole, virgolette, mentre i carnefici all'inferno. Quindi anche quando vi comportate da carnefici vi sentite vittime dentro di voi. La relazione vittima-carnefice è l'asse portante della vita sul vostro piano di esistenza, è il massimo grado di espressione della dualità. Chi diventa consapevole di ciò automaticamente comprende che il male non esiste e rientra al centro, nel punto di origine delle due spirali, che non è né luce né ombra, ma solo un punto di origine unitario, prima della scissione duale, quello che tutte le vie di ricerca interiore chiamano divina presenza io sono. Ero senza parole. Per quanti anni avevamo colpevolizzato una donna, un serpente, una mela, per tutti i guai dell'umanità. Fu in quel preciso istante che decisi di usare tutte le mie forze e le mie capacità di persuasione per divulgare questa verità con qualsiasi mezzo. E mentre Lucifero si alzava da tavola e impeccabilmente mi ribaciava la mano per prendere commiato, sentii un brivido di consapevolezza. Una grande euforia mi pervase, la gioia della comprensione, la risposta finalmente a tanti dubbi e domande che fin da bambina mi avevano separata dalle mie coetanee. Se Dio è onnipotente, com'è possibile che il male sfugga al suo controllo? Questa era la grande domanda. Ora sapevo. E la mia gioia doveva essere chiaramente visibile perché il mio ospite mi guardò negli occhi e nel ringraziarmi mi donò uno sguardo sulla sua anima e sulla mia e sull'anima della creazione.